Ancora all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, in questa domenica 3 giugno 2012 inizia Caffè Dop... Ma che cazzo? Oh, Tomè! Tomè, tu! Ma che... Jenny? A DVX, ma che cazzo? Ma col fuori strada sei venuto? Eh sì, dobbiamo andare a prendere latte, dai, scendi, muovite, muovite! Se non prendo il caffè non riesco a carburare. La grande maggioranza di caffè consuma 3 tazzine al giorno. Il caffè è la seconda cosa trattata nella mia vita. Ma serve anche la caffeina può migliorare le nostre prestazioni mentali. Tutto il mondo si beve caffè. E alle 17:06 minuti rinizia Caffè Doppio. Insomma, Tameto, lo siamo andati a prendere questo latte. Sì, per metterlo nel caffè naturalmente, perché se c'è il latte da solo, to bevi te, direbbe Davidone. Vabbè, insomma, questa puntata, dopo aver parlato tanto di biciclette nella scorsa puntata, incentriamo questa puntata sull'automobile. Ebbene sì, perché dopo aver parlato di un mezzo a due ruote, che poi insomma già che c'ha due ruote è un po' uno scandalo, perché dov'è con due ruote, no? Poi comunque devi faticare, insomma sì, l'ambiente eccetera, ma alla fine noi abitiamo a Roma, pure a una certa chi se ne frega, nel senso, no, noi vogliamo andare veloci, andare a comprare latte col macchinone grosso, no? Perché alla fine c'è, cioè, uno è importante, rispetto, no? Tutte, esatto, quelle cose che potrebbe saprà benissimo, come, no? La famiglia, che danno un certo rispetto. Però io, prima di iniziare la puntata, se mi permettete, vorrei fare un saluto. Devo fare assolutamente un saluto a Cucchiaino, che oggi non può essere con noi, saremo solo in tre povere stelline. Questo latte che abbiamo comprato per metterlo nel caffè è rimasto a galla perché non c'è il cucchiaino. È proprio è vero. Bella, una splendida metafora. Complimenti. Alla Leopardi. sì, sicuramente Leopardi sarebbe veramente fiero di te in questo momento. Sì, insomma, allora, uno dei pezzi che mettiamo nei nostri SUV con i sedili di pelle quando stiamo al centro di Roma, soprattutto a Piazza Venezia, a 180, superando sulla destra tutti quei coglioni che vanno in giro in bicicletta, ci ascoltiamo questa canzone a palla con i finestrini aperti, perché, diciamo, ci dà un tono, no? Noi che siamo di Roma, appunto, come dicevamo, siamo molto attenti alla nostra immagine, siamo molto attenti al nostro rispetto, a come ci guarda la gente, e per questo mettiamo a palla la macchina del capo. E adesso buchiamo la gomma, vai! La bronze! Fa un sacco figo questa cosa, cioè, no? Lo so, bastante. Mio fratello fa uno squillo virtuale, mio fratellino di 2 anni e mezzo, per questa canzongina. Mazza, sta avanti, già l'ascolta. Bomba! Ma che ce lo sai che ascolta lo streaming su internet? Beh, poi l'ho masticata moltissimo e più quanto diventa bella molle. Questi ragazzini di oggi non so più parole, guarda, la gioventù bruciata. E mentre la macchina del capo ha un buco nella gomma, ricordiamo brevemente i contatti: 0649 1750, il numero di telefono, il servizio nuovissimo di SMS 342 357 4357. Sì, perché tra l'altro un'altra delle cose che si fa, no, a Roma quando stai in macchina è stare al telefono. Giustamente dici, sto qua in mezzo al traffico, mi rompo le palle, che faccio? Chiamo Onda Rossa. Allora, 0649 1750 è il numero giusto da chiamare. Baby, can't you see? e intanto ci ascoltiamo i Beatles con Drive My Car. Allora, quest'oggi un saluto lo rivolgiamo anche alla sala di redazione che questa domenica è piena, tutti con i coltelli tra i denti stanno decidendo chi combatterà per primo per appunto e dovrà praticamente sgozzare l'altro. E chi va alla nomination? Sì, insomma, la nomination, quindi noi li rallegriamo ancora con la macchina del capo. È inevitabile, qualcosa di veramente devastante, ragazzi, mi sto vergognando. Sembrerà una canzone da cretini, no? Però lo dice il titolo, che se te l'ascolti sei il capo, capito? '87.9 Radio Onda Rossa, la macchina del capo. Caffè doppio. Una gomma, la macchina del capo. Scusate se vi tronco l'emozione, però sarei pure il capo, però il testo dice che se sei il capo stai fregato, perché il buco nella gomma non è proprio il massimo. Avanti col mimo, invece della parola mi viene il concetto. Non diciamo più macchina, ma brum! Brum brum! La brum del capo, c'ho buco in una gomma. La brum del capo. Beh, insomma, avrete capito che siamo totalmente pazzi qua in studio. E in questo momento Trebla fa dei gesti. Ma non si capisce. Cioè, non si capisce. Cioè, sta parlando da solo. Sei per caso stufato di ascoltare questo splendido pezzo? No. Perché la porta è quella. Quella è la finestra. È la tua porta, perché l'altra è per noi. Defenestrato soltanto perché non gli piace questa song. Eh sì, dicevamo che insomma a noi ci piace andare in macchina pure perché, diciamo, siamo persone che tendono a dare solidarietà ai più deboli, no? E in questo momento di crisi pensiamo sia doveroso dover portare il nostro aiuto alle multinazionali del petrolio. Esatto. Usando di più la macchina, soprattutto appunto consumando tanto, perciò comprando dei SUV, anche se magari può essere un grosso sforzo perché non tutti il SUV se lo possono permettere. Esatto. No? Una macchina per uno, per finanziare meglio l'ENI. Certo. Vabbè, insomma, apriamo tutti un piccolo mutuo per comprarci un SUV, mi sembra giusto. Finanziamo. Bravi, tutti assieme. Le multinazionali. Visto che anche l'industria automobilistica italiana è in crisi, incentiviamo a comprare macchine italiane. Beh, poi la masticata mi ricorda un manifesto brutto brutto, però. Una mano, meglio la vostra, e tirate fuori il joint, mi fate tirare palla come sto facendo io. Le sue, è ora di cambiare musica. Daniele Silvestri, Gino e l'Alfetta. Minuto magico. Ancora 87.9 in FM, Radio Onda Rossa e Caffè Doppio. Sai cosa sei, sei diverso da noi, ma che vuoi, sono gay, fatti miei. Che disturbo ne hai, quale enorme disagio ne trai. Sono gay, sì, sono gay, non sono gay, ma vorrei. 06 49 17 50 per l'Alfetta di Gino. Per persone un po' più eloquenti ci potete anche scrivere un SMS al numero 342 35 74 357. E tu pensi Ricchione? Maria, sei sempre. Sembravi una meteorina di Emilio Fede. Possibile, ma vicino, io mi fido un po' di più. Ma lui mi conquista. A parte che c'è il nome di Emilio Fede. Quando poi in Caffè Doppio fai una rubrica che è del tutto ispirata da lì, perciò. Boh, a bozzone. In senso opposto, mi auguro. Ma non lo so, dipende se tu la fai seriamente o no. A me sembra che la fai seriamente. Tu dici che è ironico, secondo me no. Secondo me no. La faccia della gente che è sempre troppo ironica. Continuiamo con questo ascolto di Gino Alfetta. Pezzo è? Si sta riaccendendo la macchina del capo, credo. No, no, no. Ehi, un momento! La macchina del capo! E c'è un buco in una gomma! Samba? No. Vabbè, basta, insomma, che sarà la terza volta che abbiamo messo questo pezzo. E ci vabbè, vabbè, è la colonna sonora, dai, c'è sempre il movimento, il motivetto che io sto seduto, accompagna sempre. E io e Tameto invece balliamo. Perché sei presa culo? Perché sei tu che prendi sempre la macchina. Perché sono una persona cosa anziana. Prende lui? Io... Cosa prende lui sempre? Cioè, no, nel senso ah, ecco, che... la fa prendere agli altri la macchina. Esatto. Ma perché sono un fuorisede, no? Senti, e che quindi allora... La macchina del capo, c'ha un buco in una gomma. La macchina del capo, c'ha un buco in una gomma. E noi la aggiungeremo con il chewing gum. E adesso tutti assieme... Non è meglio, dice chewing gum. E comunque evidentemente... Oppure chewing gum. Oppure chewing gum. In ogni caso, evidentemente... Nella giornata di oggi, nella strada che ho fatto con DVX sulla sua splendida moto, tutte le macchine di tutti i capi di Roma evidentemente avevano più ruote bucate, perché ci abbiamo messo 40 minuti ad arrivare in questo fottuto posto. No, sembra che la domenica la gente che va per strada, cioè non c'è nessuno praticamente, però la strada è piena di... Se può dire? Di gente che dorme. Facciamo così. Gente che si assopisce. Cioè, si assopisce un po' tanto, cioè nel senso che ancora nel dormiveglia. Infatti ascoltatevi Caffè Doppio, che sicuramente vi svegliate adesso. Piate in Caffè Doppio, così sicuramente vi svegliate. Anche perché non è che se voi siete lenti ci dovete rompere i coglioni a tutti quanti, no? Bailino, cogliolino! E soprattutto tu, velocipede, non ti mettere in mezzo alla strada. In una coma, la brune. Ho assistito sabato scorso, in mezzo a Trastevere, a una scena abbastanza curiosa, no? Giusteremo con il cewingo. E ora come si fa la gomma? Bravo. C'era una manifestazione di quei fricchettoni, no? Quelli che si fanno le canne, sì, proprio quelli che andavano in bicicletta, no? Capito? E un poverino che stava lì col SUV, c'aveva pure un bel SUV, poverino, che ci avrà speso un sacco di soldi per finanziare la guida. È uno di quelli che non riesce ad arrivare a fine mese, porra, esatto. È stato bloccato da questi qua e non lo facevano passare. Porra stella. E quando è sceso dalla macchina per dirgli levatevi dalle palle, quelli lì non si spostavano. Hanno tenuto bloccato per mezz'ora. Io dico, dove andremo a finire? Veramente, guarda, signora mia, non ci sono più le mezze stagioni, veramente un dramma. Vabbè, insomma, questa canzone... Ha rotti coglioni. Vabbè, insomma, ci sono modi e modi, insomma, tu... Vabbè, ma Tameto, se a te piace così tanto, e lo sappiamo che ti piace, abbiamo messo anche un'altra versione di questa canzone, ma ve la faremo ascoltare dopo. Magari adesso, dato che abbiamo parlato del traffico di Roma, io direi di passare al prossimo pezzo, che è di amici nostri, amici di questa radio, amici di Radio Onda Rossa. Eh sì, amici nostri che ci hanno già fatto compagnia nelle scorse settimane, non possono che essere i Radici nel Cemento con Il Traffico de Roma. Per loro la lucetta la dovete far accendere 06 49 17 50 o 342 357 4357. Ma ce l'hai presente, lo sai come funziona? T'è capitato, già lo sai da te. Se non ci sei mai stato, te lo dico io com'è. È una cacciara, una vera volta, una pipinara, è una campotta. È brulicare le macchine impazzite. Si può di lo racconto da me retta, mo se ride. Il grande raccordo anulare è come una giostra che gira sempre intorno. Si lo trovi ingolfato poco male, ma se è bloccato ci rimani tutto il giorno. La tangenziale, lasciala sta, piena altra strada, non te sbaglia. Se vuoi andare dritto nell'occhio del ciclone, allora ti consiglio via la circonvallazione. I mezzi pubblici sono tutti fobici, e via del prezzo della tempestività. Infatti l'autobus va lentissimi, solo un pochetto più veloce c'è il tram. Poi c'è la metro, con anche quella, solo due linee, la terza è la più bella. Rimane il treno, sempre gagliardo, pare fatta apposta per chi può arrivare in ritardo. Say ogni santo giorno la costretta torna in pista. Li pizzardoni sono poveracci, a fine turno sono ridotti come stracci, e per sfogasse tu lo sai che fanno, a me personalmente almeno 3-4 monteranno. Li de Mapoli sono intelligenti, quando ti servono li trovi tutti spenti, quando invece scorre tutto regolare li becchi sempre rossi, intermittenza semestrale. Amberivello mi pare in gabbia, lui c'ha una fretta che se lo porta via, è già da un pezzo sì che schiuma dalla rabbia, va fa le corna pure alla polizia. E li parcheggi son merce rara, e trova un posto tutti quanti fanno a gara. Li principianti sono una minaccia, te li pedoni sulle strisce vanno a caccia. Il motorino va che è una spada, sulle due ruote lui è il padrone della strada. Te guarda davanti, te canco sopra e sotto, te dietro invece no, rosicherebbe troppo. Io non ne posso più, io non ce voglio tornare, io non ne posso più. Ci sei mai stato in mezzo al traffico di Roma? Ce l'hai presente? Lo sai come funziona? In mezzo al traffico della grande città, io lo conosco bene, non ci voglio ritornare. E ancora sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa è il caso di dire che Tameto parla tanto di io vado in macchina, io vado di qua, io vado di là, ma Tameto sta ancora facendo la patente. Non mi guardare così, tesoro. Eh sì, perché ci saranno tanti e tante neo-diciottenni che saranno alle prede con le pratiche della patente. Nelle chi, prede della Prada. Chi fortunatamente... nelle prede di Prada, no, spero che... Vabbè, insomma, che stavo dicendo? Mi fate sempre perdere, guardate tutte queste voci che sento. Speri che a Praga? Spero che a Praga piova. Spero che a Praga piova, perché... Vabbè, insomma, stavamo a dire... Purtroppo che Tameto non prenderà la patente. Probabilmente non prenderà la patente. Ora non sì, perché c'è gente che può andare in autoscuola, vai lì, no, gli sborsi 400 euro e ti fanno fa la patente. E che vabbè, insomma, chi lo può fare, giustissimo. Però sai, quando ti spende 400 euro e c'hai la motorizzazione, no, che vai sul sito motorizzazionecivile.it e ti dicono 60 euro c'è la patente, te fomenti, capito? Sì. Dici ammazza, tra un mese c'ho la macchina, ho speso solo 60 euro, la te faccia piacerebbe. Di quel coglione che te ha speso... Piacesse, te piacesse, parla italiana. Te piacesse, però, giusto. Però manca un dettaglio, il costo sarà pure ridotto, però devi andare prima... alla motorizzazione per prendere il provvisorio del provvisorio della patente, poi vai a ritirare manco, il provvisorio perché prima devi andare a prendere i documenti, cioè perché tu già hai fatto la teoria, certo, no? Certo, però, insomma, te ritrovi 120.000 volte la motorizzazione, te per prenoti e paghi la ASL, vai lì, gli dici che ci vedi un po' male e ti dicono che devi fare 200 euro di visite. Di mortacci sua che gli avrei dato un calcio, davvero. Scusi, deve fare l'analisi del sangue per la vista. Ma scusi, non ho capito il nesso. Capito? Sì, l'analisi dell'abbagliamento. Ho detto, ma che cazzo stanno a fare l'apartheid dei ciechi? Cioè, deve andare dall'osteopata, deve controllare se i piedi e le ginocchia sono in buone condizioni. Guardi, ho 18 anni. Vabbè, ma fatto sta che alla motorizzazione ci vai 234.000 volte, quindi il costo si equipara a quello delle scuole guida. In poche parole, per la benzina che spendi. Però alla fine c'ha un ritorno positivo, perché torniamo a dire che usi di più la macchina e perciò vai a finanziare le multinazionali del petrolio. Esatto, quindi questa perciò è meglio cosa finanziare quelle piuttosto che quelli che speculano sulle pratiche. Siamo veramente tanto contenti che vi piaccia questa canzoncina. La Caffè Doppio proudly presents Americani Blue Bluff Once an Hour Barack Cara Casablanca Para di Ciucciu. Ma che cazzo hai detto, Dè? E vabbè, le notizie di Otrebla. Ed eccoci qua alle 17.30 e 45 secondi. Mentre le campane di San Lorenzo, come al solito, ci fanno compagnia. Vi ridò il bentrovati sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, con la rubrica che ci va a ricordare com'è bello vivere nel paese dei furbi. Oh, com'è bello far l'amore da Trieste in giù. No, no. Soprattutto ad Arcole, giustamente. In Emilia la terra continua a tremare, numerosi soccorsi arrivati da ogni parte della penisola alle famiglie colpite dal disastro del sisma. Intanto a Roma ieri si è svolta l'annuale parata del fascino della divisa, che ci va a ricordare quanto sia sobria e retta su solide basi la nostra cara Repubblica, che quel giorno di più 60 anni fa vinse il referendum per un pugno di voti. La partecipazione popolare è stata tale da dimostrare che c'era un consenso larghissimo sulla necessità di manifestare tutta la nostra vicinanza alle popolazioni terremotate, così commenta il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Un piccolo appunto: probabilmente la nostra vicinanza alle popolazioni potevamo dimostrarla devolvendogli le ingenti somme di denaro gettate per la parata. Potevamo semplicemente anche simbolicamente interrompere le celebrazioni. Forse sarebbe stato più apprezzato. Vi dico la mia pazza idea: se non viene stampata altra moneta dalla BCE, stamperemo noi la nostra moneta con la nostra zecca. Così Silvio Berlusconi, a proposito delle mancate richieste di Mario Monti alla BCE, il premier si dice disposto a uscire dall'euro pur restando nell'Unione Europea. Mai vista una situazione di questo tipo, la gente è sfiduciata e sotto shock per come viene descritto il futuro in modo oscuro. E continua, come nei discorsi del 1994, a dire che ancora oggi occorre insistere sulla necessità di una rivoluzione liberale. Io sono ancora a disposizione, dice, non come Presidente della Repubblica e non come Premier, ma attenzione, come allenatore. Se mi vorrete ancora, non mi tirerò indietro. Peccato che si dimentichi sempre di dire, se non mi vorrete ancora, mi tirerò indietro. Però attenzione, perché siamo abituati, giorni dopo arriva la smentita e dice: è grave che abbiate scambiato una battuta per una proposta vera, è grave per chi evidentemente persegue idee diverse da quelle di informare. Simpatico il fatto che tra i personaggi che perseguono idee diverse dall'informare c'è anche il governatore dell'Abruzzo, PDL, che afferma che l'idea dell'ex premier è un'ottima idea, e altri deputati, sempre PDL, che propongono Berlusconi come ministro dell'economia. Che idea geniale. Diventiamo un po' seri, lo so. Sarò accusato di essere monotono, di non avere argomenti da trattare, ma non è così. È che certi argomenti non possono non essere trattati perché sembrano barzellette, no? Allora, se io vi dico, per esempio, 1.000.000 alla messa del Papa di oggi, non cominciate a ridere, eh? una messa dove il Santo Padre ha fatto un ripassino rapido delle regole del perfetto credente che ascenderà un giorno in paradiso, oltre a ribadire che la famiglia è unica, è inseparabile, è formata assolutamente da uomo e donna, e questo lo sappiamo tutti e ci crediamo veramente fortemente, ha ricordato inoltre. Nelle moderne teorie economiche prevale spesso una concezione utilitaristica del lavoro, della produzione e del mercato. Il progetto di Dio e la stessa esperienza mostrano però che non è la logica unilaterale dell'utile proprio e del massimo profitto quella che può concorrere a uno sviluppo armonico. Minchia, non è che pure Ratzinger aspira al Ministero dell'Economia? Vabbè sì, basta, stiamo sempre qui a parlare male dell'Italia, ma non è tutto così malvagio come diciamo, dai, ci sono giovani attivi, impegnati socialmente, decisi. Sì. Cioè, ci sono davvero, però... Chiudiamo con una simpatica notizia, chiudiamo questa rassegna. Stile TG2. Caos al mini set acustico di Justin Bieber all'Alcatraz di Milano ieri sera. La giovane star del pop si è esibita di fronte a mille fortunate sorteggiate per assistere alla sua performance. Fin dal mattino decine di ragazzine, alcune accompagnate da mamma e papà, si erano assiepate di fronte al locale sperando di rompere il cordone di sicurezza ed entrare prima di tutti. Il maestro Justin sale sul palco e dice in italiano «Ciao ragazze, come state?» e circa 30 ragazze vengono colte da malore. Ebbene, questa era l'ultima notizia. Anche questa settimana il paese dei furbi ne ha combinate di tutti i colori, anche se non c'è tempo per poterli elencare tutti, purtroppo. A voi lì in studio. Grazie ad Otrebla per le sue news di ogni settimana, insomma. Sì, io direi grazie a una ceppa, no? Io dico, ieri suonava Justin Bieber e non ce lo vieni detto a dire oggi. Vabbè, raga, ma a Milano, cioè, poi doveva prendere la macchina. Ho capito, vabbè, ma fai tutto, cioè, spendi tutti i risparmi di una famiglia per andare a vedere Justin. Io fino a Milano non ci sarei arrivato. No, perché che te ce vuole? Non è per Justin in sé, te lo dico. È perché... Perché David doveva prendere la macchina, quindi siccome lo sai com'è David, quando gli diciamo David, ma prendi per caso la macchina? Sì, no, poi dai che pulpito, capito? Infatti, cioè, vabbè, l'ultima persona che può parlare lui. Prendi però... la macchina che siamo tutti in autobus, dobbiamo andare fino a Namontana e poi tornare col notturno. No, non mi va. A me che me frega, io devo bere. Io stasera devo bere. Io una birretta, io una birretta me la voglio bere. Vabbè, una, per punizione, una per punizione te la facciamo riascoltare. Questa è una punizione per tutta la gente che ascolta gli 87.9. Ci arrivano messaggi qua nella redazione che, vabbè, insomma, oltre al caffè doppio, c'è qualcuno che dice di prendere caffè e grappa di amarone a volontà. E mi pare pure giusto. E adesso tutti assieme avanti col mimo. È sciapo senza la grappa al caffè. Beata bravo. Te. Beata te. Quindi ci chiedono. Quindi ci chiedono, insomma. Ma voi, a che ora andate a dormire? Ma voi, che fate di solito? Noi l'avremmo voluto fare già più volte, insomma, Cucchiaino insisteva molto per raccontare le nostre serate. Poi noi dicevamo, ma figurati se chi ascolta Onda Rossa interessa che ha fatto Cameto, che ha fatto Trebla, che ha fatto DVX o tantomeno Cucchiaino. Però invece c'è un ascoltatore che ce lo chiede, anche se agli altri non interessa. Noi quell'ascoltatore lo rispettiamo al 100% e gli diciamo e proprio, proprio quello che abbiamo fatto ieri sera. Va bene, allora, cenetta tranquilla. Sì, ognuno per circa le sue bistecche e un barbecue, insomma, bella panzata, diciamo. Vabbè, non ingigantiamo. Buono. cenetta. Un piatto di pasta in bianco, no? Ecco. Meno male, va. 22 e 21 circa, piazza San Calisto, dove c'era una riunione di tantissimi giovani colorati, felici, che beveva insieme, insomma. E noi curiosi. Sì, e noi curiosi lì, solo a guardare, spettatori. Sì, perché ieri ci eravamo dimenticati che era una giornata abbastanza importante, perché ieri sera, appunto, 2 giugno, si è svolta la prima grossa manifestazione, il corteo notturno di Trust Invaders, questa campagna di giovani che rivendicano spazi a Trastevere, e perciò ci siamo aggregati, insieme a loro ci siamo fatti un giro per Trastevere. E ci siamo bevuti un po' di spumantino del 96. Sì, ma a me non me l'avete passato, cioè, lo dico. No, perché te, vabbè. Puntini, ti eri appartato. Appartato, ma dove? Te non ci stavi più, eri scomparso. Ah, okay. Allora è diverso, non me l'ho appartato. Stava supplicando un feudo, magari una cessione. Insomma, perciò va avanti la serata, Otrebla ci abbandona, io di VX che ci facciamo un altro giretto per Trastevere, un'altra biretta di qua, di là. Ah, certo, diciamo verso le 2, diciamo, beh, che facciamo? A canna, esatto. A canna, certo. Andiamo da Tameto a dormire. Sottolineiamo a dormire. Peccato 2:22 a casa di Tameto, cos'è che succede? Cosa succede? Peccato che non si può raccontare un'ora dalle 2:22 alle 3:22, però parliamo dalle 3:22 in poi. Prima, 2 giorni prima di ieri, noi abbiamo avuto la splendida idea, in realtà un mese fa, di regalare per il compleanno a Tameto un bel proiettore. Ora, HD, questo proiettore 3 metri HD 3x2 proiettato su un muro bianco, se tu lo colleghi al tuo personal computer e sul personal computer ci installi un qualsiasi gioco di calcio o di guerra o qualunque gioco esso sia, tu perdi una nottata senza dormire. Questa è la soluzione, però non vogliamo dire che noi abbiamo fatto questo, era un'ipotesi, cioè proprio il programma doveva essere quello di giocare a calcio con i giocatori che naturalmente stavano a livello reale, cioè nel senso che le proporzioni erano 1-1, esatto. Scala 1-1. Peccato. Una testa 1-1, cioè 1-1 nel senso una testa 1-1, davvero. Peccato però che non avessimo i joystick per poter giocare e quindi i tre fortunati hanno avuto una splendida idea, i tre fortunati che sono qui a raccontarvi questa storia hanno deciso, seguendo il filone del calcio italiano, quindi Conte, Buffon e tutti i compari, di vederci una bella partita della nazionale, precisamente era Italia-Honduras, boh, non mi ricordo, però abbiamo fatto giocare la prima era Bari-Barcellona. Bari-Barcellona all'Olimpico, che cazzo c'entra, non all'Olimpico di sera, una serata bellissima, è finita 0-0, sono arrivati i tempi supplementari e poi sono stati i rigori, ha vinto il Bari. In tutto questo, non abbiamo toccato il joystick, cioè nel senso ci siamo visti una partita di calcio di un videogioco. Sì, guarda, stregonerie, cose riescono a fare il computer di oggi. Finisce il campionato. Per chi non l'avesse capito, il seguire i vari Moggi e Conte vuol dire che noi abbiamo scommesso su tali partite. E chi ha vinto? Io. Che se loro finiscono in carcere. Otrebla ha vinto 10 euro nella giornata di ieri sera, perché sapevo che una partita di PES al computer va a finire 0-0. Quindi alla chiusura del tempo regolare è finita 0-0 e mi hanno sborsato 5 euro a testa. Che in teoria non mi hanno ancora sborsato. Quindi mi raccomando, mandate messaggi, squilletti e cose. Vi ricordiamo che il numero per insultarci, perché noi non paghiamo i nostri debiti di gioco, è 0649 1750. Se no, altrimenti 342 3574 357, per scriverci se secondo voi avrebbe vinto il Bari o il Barcellona. Perché cazzo, cioè, Bari-Barcellona, i giocatori del Bari li avevamo messi tutti esausti. Vabbè, ma perché il Bari, no, non è vero, le impostazioni che ho fatto io erano tutti eccellenti. E no, dovevi fare un mega partitone, capito? Però non è che ti aspetti. Vabbè, dato che i nostri ascoltatori non gliene frega niente delle scommesse. No, un'ultima cosa che volevo dire, che se Moggi magari lo mandano a carcere perché insomma fa tutti quei casini con le scommesse, a noi riaprono i manicomi e ci buttano dentro perché scommettiamo su pezzi. Vabbè, ma scusa, siamo italiani, noi seguiamo la moda che c'è in Italia. In Italia si scommette sulle partite. Si truffano le partite. Le case ci si scommettono sulle partite. In certo. Vabbè, ma insomma, le nostre voci, nonostante piano piano si stiano scaldando sempre di più, e tra un po' purtroppo si dovranno interrompere, voi avrete sicuramente voglia di ascoltare ancora un po' di musica. Io direi di passare allo ska anni 80, precisamente a Londra con i Madness. Yes. Driving in my car. Yeah. l'inizio sembrava quasi la macchina del capo. No, no. Lo sai, 49, 17, 50. Dopo questo pezzo, ma direi di andare avanti con la nostra scaletta musicale. Mettiamo subito Dente, Baby Building. La gente non capirà perché lo mettiamo in una puntata dedicata all'automobile, ma forse lo capirà inverno. Dopo. E così anche il gelo nel tuo cuore si scioglierà. L'inverno finirà e ci piacerà ballare più di quanto non ci piaccia già, più di quanto non ci piaccia già. Quando finirai gli esami andremo al mare con la macchina e si parlerà quando ti dicevo, ma che belli occhi che hai, sa come mi vedi bene, che belli occhi che hai, sa come mi vedi bene, che belli occhi che hai. Poi mi regalerai un bacio lungo dalle miglia all'Africa. Io ti darò un cesto di stelle di plastica. e la mia povertà, la mia povertà. E niente di niente, di niente, di niente ci toccherà. La stessa dolcezza di quando ti dicevo, oh che belli occhi che hai, chissà come mi vedi bene, che belli occhi che hai, chissà come mi vedi bene, che belli occhi che hai. Questa canzone noi non finiremo mai. E allora, quando finirei gli esami, ti porterò al mare in macchina. Era questo il messaggio. Ma è una proposta. Che mi stai guardando con occhi dolci. No, ma sono gli occhiali. Ma che mi... begli occhi che hai, chissà come chissà mi vedi come bene. Mi vedi bene. No, allora tolgo gli occhiali. Così, così vedo, non mi vedi non più. Ti vedo più. Vabbè, insomma, meglio. Ci sono. No, persone che in questo momento te ne parlavamo della versione, no? No. Un remake. E secondo me ce la mettiamo pure da capo. No. Che aspettavano. C'erano persone che aspettavano questo momento, il remake della macchina del capo. Con quest'aria molto tirolese, capito? La Svizzera. È orribile. La macchina del capo ha un buco in una gomma. La macchina del capo ha un buco in una gomma. Ripariamola col cielo. Manco ve la ricordate. Manco ve la ricordate. È una versione Remake, diversa. Remake che... L'hanno arrangiata. L'hanno arrangiata in modo diverso. Brum. Capo, un buco in una... Vabbè, dai, taglia. Cioè. Sì, insomma, no, tagliamo. Una certa. Come e poi dire? Ci sono persone che vanno in macchina sotto casa di Tameto. Di cui non dirò il nome di queste persone. Io. Per trovare un posticino tranquillo, lontano da. Occhi inconsulti e dai rumori della casa piena di genitori. Con Tameto che ti spia dall'alto dei suoi 5 piani. Sai quanti binocoli mi sono dovuto comprare? Tu non hai idea. Proiettore. Ah, ecco cos'era quella scatola dei binocoli che c'avevi in casa. Ma li mortali. Diciamo che i posti più frequentati quali sono? Oltre a casa di Tameto, Gianico. Oltre a casa di Tameto. Se tu vai vabbè, a fare dai, un giro così, sto scherzando, tra, cioè non è tra vero. Amici, diciamo, dall'una e mezza alle due di notte, puntualmente ti trovi il Gianicolo costellato di sì, macchine. Sì, è vero. Sembra una galassia, tutte lune, tutte soli, tutte stelle. E sono in verità tutte macchine, giustamente, di amanti. Di personaggi che non hanno casa libera come David. Ma non parlare di me, no, perché anche no, te non è che sei da meno, no, eh? Io assolutamente, io vabbè, che persona integerrima. La macchina del capo. Cioè, perché gli si è bucata la gomma, per quello rosica tanto, che credi che doveva andare a farci? Giusto. Ma che brutto posto le macchine, parliamone. Che brutto posto le macchine, ma portate la vostra donna al mare, una cenetta romantica, poi in spiaggia, la luna, ditegli parole dolci ma quello, e cioè, trattatela pure sempre capito? Bene. Cioè, quello pure volentieri, ma avecce i sordi. È quello che... C'hai i sordi, ma se c'hai la macchina c'hai pure i sordi, c'hai pure il SUV, e che te lamenti? No, è proprio perché hai comprato il SUV per sostenere l'aereo, ti ricordi il discorso? Vabbè, io vi posso dire la mia, cioè senza fare tutto questo discorso, io alla proposta di DVX avrei detto, sì, vabbè, direttamente, cioè senza stare qua a dire, ma la ce ne costa troppo. le battute agghiaccianti di Debo. Cosa ci fa un polpo su una Ferrari? La pole position! E la sigla non va. Ma i fischi, sì, invece, no? Perché naturalmente, no? Uno fa fischiare perché, perché è entrata, perché gente. Entrato, è perché è entrata gente. Niente, abbiamo combinato un po' di casini. Diciamo che la Onda Rossa è la radio di chi se la sente, la radio libera nelle 3 del 77, però è anche la radio dei guasti tecnici. E quindi dai, guasti tecnici causati da noi, tra l'altro, causati non da altri, no, no, attenzione, no, da perché noi non abbiamo il controllo in questo momento. Oddio, la macchina del capo! Zitto, Alberto! C'è la macchina del capo! Adesso ve lo giuro, vi frullo dalla finestra tutte e due. Io stavo dicendo che chi volesse fare uno squillo alla radio libera dell'Etere del 77, la radio dei guasti tecnici, 06 49 17 50. Dai, però una certa mi sa che ha stuccato sul serio questa. Ma no, no. Ma va? E comunque, sempre parlando di quello che ha detto Alberto in questo momento, dato che questa radio è una radio senza padroni e neanche sponsor, se volete dare un contributo a questa radio, mandate, sottoscrivete al conto corrente postale 61804001 intestata Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185, Roma. Non diciamo più macchina ma brum. Visto che qui cominciano a fare versi nel pezzo, e comincia a squillare anche il telefono e la stanza si tinge di rosso. Vede che gli è suonata la sveglia invece che le 17:57 si sveglia. Però questa puntata la trovate anche in replica sul sito www.ondarosa.info oppure mercoledì mattina alle 4:30. Andiamo in onda con l'ultimo pezzo. Andiamo indietro con un po' di musica country. Johnny Cass, Cass. Johnny Cass. Johnny Cass. Complimenti, no? Johnny Cash, Johnny Cash con General Lee. I'm a charger that charges through the night like an orange bolt of lightning passing everything in sight. I'm the best pal the Duke boys ever had. I'm thunder on the highway looking bad, bad, bad. I'm a knight like the kind in shining armor with my polished body gleaming. I'm a fighter and a charmer. If trouble comes your way, just ask for me. My friends all know me as General Lee. I'm the General Lee, a pistol puppet, steel belt, a cavalry. I'll never let you down when you're riding with me. Buckle up and I'll show you what I mean. Take a look back there. Sirens blowing, red lights flashing everywhere. We'll cross the field and we'll be running free. They'll eat us with compliments of me. The General Lee. Con questa musichetta di sottofondo di Johnny Cash, Generale Lee, I'm a hero, and that's how I'll make it. Ricordando gli anni 80 con la serie televisiva The Dukes of Hazzard. E già con questo sottofondo musicale alle 17:59, quasi 18 in punto, Caffè Doppio comincia a salutarvi. Purtroppo nella prossima ora Jazzy non vi farà compagnia in questa domenica 3 giugno 2012. Ma come al solito ci sarà il compagno automatico a sostituirla. Io faccio un saluto perché io me ne vado per un po', diciamo, tornerò forse verso luglio, forse verso agosto, forse verso settembre, quindi la voce di Otrebla vi abbandona per un po' di tempo. Scarfa sarà contento. Guarda, è commosso, ho visto la gola che gli si stringe. Sì. La voce del, la voce del Progressive a Radio Onda Rossa scomparirà per qualche mese, Scarfa esulta. Voce del Progressive, non esageriamo, c'è stato solo un esperimento, primo, secondo, non apprezzato, e quindi... Ma non siare modestia. Bordello, i problemi tecnici continuano sugli 87.9. No, era la traccia. Alberto, sì, questa sì, poca cultura, scusate, era la traccia, ragazzi, di Johnny Cash. Scusate, dagli anni comunque 80 in poi, come avete capito, dagli anni 80 in poi a me non... No, non te ne frega niente. Vabbè, a parte quello, noi vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata di Caffè Doppio di domenica prossima, sempre dalle 5 alle 6. E allora, dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, e un saluto particolarmente caloroso a chi ci ascolta nonostante sia ristretto dalla propria libertà. E allora, in questa domenica 3 giugno 2012, un buon proseguimento di serata. Allora, o Trebla lo risentiremo per via telematica. E noi l'aggiusteremo. L'appuntamento, appunto, è a domenica prossima. Beh, prenderò. Sostituirò Cucchiaino. E quindi dovrò dire una frase tipica alla fine della puntata. Quindi non mi chiedete di fare i saluti adesso. Vabbè. A risentirci alla prossima domenica. Ciao, ayo! Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè è la seconda materia prima trattata sui mercati finanziari. 70 milioni di tazzine al giorno. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè, il caffè. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La caffeina può migliorare le nostre prestazioni mentali?